America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, la prima notizia è che l'ordine per perseguire tutti gli immigrati illegali negli Stati Uniti è partito. Devo dire, sono state un paio di direttive durissime contro l'immigrazione illegale. Si pensava che questa direttiva potesse colpire soltanto coloro che si erano resi colpevoli di crimini gravi. In realtà non è così. Basta che qualcuno sia detenuto come immigrato illegale che potrà essere espulso. Devo dire, è una regola durissima, perché ci sono 11 milioni di immigrati illegali negli Stati Uniti, immigrati illegali soprattutto di origine latinoamericana, e dunque più facile identificarli. Ecco, l'abbiamo preso questa notizia ieri notte. Grande paura naturalmente fra questi milioni di persone, milioni di famiglie che sono radicate qui ormai da molti anni. I look forward to joining the national security team and doing everything I can to advance and protect the interests of the American people. Thank you very much, sir. You're going to do a great job. Bene, la voce che avete sentito del generale H.R. McMaster, il nuovo capo per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump. Finalmente Donald Trump è riuscito a trovare qualcuno che possa occupare con grande dignità, sottolineo, la poltrona lasciata libera da Mike Flynn. Le reazioni generali alla nomina di McMaster di ieri sono state tutte positive. È considerato uno stratega, è stato McMaster che ha in qualche modo capito quali erano i punti deboli della strategia americana in Iraq, è un generale dei Marines, quindi un uomo che ha combattuto, è stato al fronte. Sentiamo un altro generale, perché abbondano i generali nell'amministrazione Trump. It's a fair demand that all who benefit from the best defense in the world carry their proportionate share of the necessary cost to defend freedom. Ecco, Jim Mattis, il segretario al Pentagono, lancia un avvertimento all'Europa. Dice, cioè, se non aumenterete in tempi rapidissimi, a livello del 2% del PIL, le spese militari, beh, l'America dovrà rivedere i suoi impegni nel contesto dell'alleanza. Ecco, questo è un avvertimento che non è piaciuto durante gli ultimi giorni. Abbiamo avuto giorni e giorni di incontri, prima a Bruxelles, poi a Monaco con un vertice internazionale sulla sicurezza, poi di nuovo a Bruxelles col vicepresidente Pence. Ecco, non è piaciuto in Europa perché c'è come un atteggiamento un po' di minaccia ricattatorio da parte degli Stati Uniti. Ecco, di questo io vorrei parlare con il generale Vincenzo Campurini, che è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, oggi vicepresidente dello IAI e tra l'altro conosce il generale Mattis. Buongiorno generale Campurini, mi sente? Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ti ascolta. Allora, intanto una valutazione di queste dichiarazioni di Mattis, perché qualcuno non si aspettava una vaga minaccia. Attenzione, se non pagate noi facciamo marcia indietro. Questa richiesta di Mattis è chiaramente una richiesta che ha un sapore politico, che non ha nessuna possibilità di essere soddisfatta. Paesi come il nostro non è pensabile che nell'arco di mesi possano raddoppiare praticamente il loro impegno finanziario per la difesa. Non è sorprendente perché di vado in serie si parla da sempre. È chiaro che Trump sta dando una accelerazione a questo e i suoi ministri si stanno in qualche modo allineando le loro dichiarazioni, ma io non credo che questo porterà a nessuno sconquasso, anche perché è vero che noi spendiamo molto poco e spendiamo molto male, è anche vero che comunque siamo gli unici alleati su cui gli Stati Uniti possono davvero far di conto. Ecco, c'è però la Germania che mi sembra sia all'1,2% del PIL. Diciamo che se la Germania dovesse aumentare significativamente il proprio sforzo finanziario, in un periodo così breve non si saprebbe neanche che cosa fare con questi quattrini, perché non è che si possono comprare i carri armati e gli aeroplani. No, ecco, però ecco appunto. Esatto, non i carri armati, ma una cosa molto interessante che ho notato proprio su uno studio della NATO è che in realtà gran parte delle spese nuove dovrebbero essere delle spese che vanno molto al settore civile, spese in telecomunicazioni, spese in cibersicurezza, spese che possono anche essere considerate degli investimenti e quindi in qualche modo anche una manovra di stimolo. Ecco, di questo se ne parla nei vostri circoli? Non è il focus principale nei nostri circoli questo. Uno dei focus invece sono le spese per il personale, perché uno dei problemi che stiamo affrontando tutti quanti è una riduzione progressiva del numero di addetti, del numero di soldati, che in qualche modo deriva dalla situazione sociale ed economica, e quindi una fetta di spesa che è molto importante, perché noi ad esempio in Italia spendiamo circa il 70% del nostro bilancio in stipendi, quella potrebbe lievitare se aumentassimo il numero degli addetti. Pensiamo alla Russia, abbiamo avuto notizie anche qui negli Stati Uniti secondo cui delle persone molto vicine a Trump avevano preparato un piano secondo cui si faceva un referendum sulla Crimea, la Crimea veniva data in affitto alla Russia per 50 o 100 anni e i russi si ritiravano dall'Ucraina orientale e dunque si potevano togliere le sanzioni. Ecco, fantascienza? Abbastanza, anche perché tornando a quello che è l'interesse di Putin, io la vedo in questo modo. Putin vuole salvaguardare dei cuscinetti intorno al suo territorio, cuscinetti che sono essenzialmente l'Ucraina in questo periodo. Un'Ucraina che è continuamente angosciata dalle crisi interne, per i separatisti, per motivi di politica interna, per corruzione e quant'altro, è l'ideale, perché è un paese che mai potrà in qualche modo aggregarsi al mondo occidentale e quindi continuerà a esistere come cuscinetto che dà sicurezza a Mosca. Ecco, generale, lei conosce personalmente, l'ha conosciuto, ha lavorato con il generale Matti, segretario al Pentagono. Ecco, è un uomo che secondo alcuni può essere un punto di riferimento sicuro per l'Europa. Ci racconti, chi è Mattis? Mad Dog? Mattis non è il Mad Dog, Mattis è una persona di grande levatura intellettuale, è una persona con cui è possibile stabilire un colloquio molto aperto fin dall'inizio. Questa è la cosa che mi colpì. Noi non ci conoscevamo, ci siamo trovati intorno a un tavolo, ma è stato facilissimo avere un dialogo molto franco, molto aperto, direi veramente su basi di mutuo interesse e di amicizia. Quindi io confido molto nelle sue capacità di comprendere quello che accade oggi nel mondo e nel capire anche le nostre posizioni. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti. Lei da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre il generale Camporini con me, i microfoni America 24. Generale, scelga lei una canzone. Cosa le viene in mente? Una canzone americana, naturalmente. No, stiamo parlando di Marine, perché abbiamo parlato di due generali dei Marine, Cole e Marine di Keith. Toby Keith, Cole e Marine, mi sembra molto appropriata, anche perché e questi Marine, poi Donald Trump, è stato lui che li ha chiamati e hanno risposto all'appello. I'm sitting in a bar boozing, losing some jack off, walks up cruising for a bruising, popping off and making my old redneck red. He asked my girl she'd like to dance, he had three buddies so I had no chance. I looked around the room for a friend and I saw Fred. A quick evaluation of the situation, we entered into a conversation that seemed to last the better part of the next two songs. Now I didn't say and they didn't ask, but Fred did two tours over in Iraq, and son, it was over before it was even on. Call a Marine, instead of 911, they're built to improvise, adapt and overcome. When you're in knee deep and you're up shit's creek, you've tried everything, tell you what you do. Call a Marine. Now my sister's husband didn't love her no more, and he runned off with a skinny little whore and left her sitting around the house with a couple of kids. She just lays around in that moo-moo gown old girl put on about 35 pounds. And one day I went over to her house and I said, hey sis, if you wanna fix what troubles you, just ease down the VFW and you'll walk through the door and turn those boys' heads. For most of those boys it's been a while, just show a little leg and that Marlboro smile. And if that don't work out for you, girl, ask for Fred. Call a Marine instead of 911, they're built to improvise, adapt and overcome. If you're in knee deep and you're up shit's creek, you've tried everything, tell you what you do. Call a Marine. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.